una proposta sicuramente di grande interesse e che parte da una constatazione importante, ad esempio che nella mia personale opinione serve una presenza più vasta, più importante e certa delle squadre dei grandi campionati, campionati europei, ad esempio dentro competizioni come la Champions League. E quindi io credo che si esprima appunto un punto di vista che è condivisibile, che è interessante e che va al cuore del problema, nel senso che poi il grande pubblico europeo vuole vedere le grandi squadre italiane, le grandi squadre inglesi, le grandi squadre spagnole. Quello che fa veramente capacità di attrazione sono le squadre che appartengono a questi 3-4 grandi campionati. Pure è vero che però la riforma voluta da Platini invece è andata in tutt'altra direzione, no? Io penso che senza nulla togliere alle giuste esigenze di allargamento, anche che vanno nella direzione di promuovere il calcio di molti paesi, io però credo che su alcuni aspetti vadano fatte delle riflessioni.